Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, la città intelligente, seconda puntata di questa nostra trilogia delle schifezze, almeno, insomma, questo è il nome che io e Chiara Albicocco, certo, che si trova qua di fianco a me. Ciao Chiara. Ciao Maurizio, buonasera a tutti, sono veramente nuovamente onorata di partecipare a questo viaggio un po' allucinante, insomma, tra rifiuti e scarti vari. E questa sera siamo al secondo classificato nell'ordine delle schifezze. Io da maschietto ero tentato di metterlo anche al primo. Anche io lo metterei al primo, perché insomma le femminucce in ascolto saranno d'accordo con me. Sanno di cosa parlano? Parliamo di? Pannolini, pannoloni e assorbenti. Un'altra materia. Non potevo utilizzare sinonimi. Allora, ti do un'entità, un numero per farti capire di che cosa stiamo parlando. In Italia si producono ogni anno 32 milioni di tonnellate di rifiuti. Allora, il 3%, vale a dire, ho fatto un calcolino, 960.000 tonnellate. Quasi un milione di tonnellate di assorbenti, pannolini e roba varia. Benissimo. Che prima finivano in discarica. E adesso invece, Chiara, sta venendo fuori che c'è un'altra possibilità. La possibilità ce la dà un progetto italiano, che è un progetto pilota, che sta partendo per riciclare questa mole gigante di rifiuti e li fa tornare un po' a nuova vita. Ne crea dell'arredo urbano, dei simpatici oggetti di design. Gnomi da giardino, plastica e carta rinascono da questi rifiuti assorbenti. Il progetto pilota parte da un comune modello, ora ti spiego. È uno dei comuni più ricicloni d'Italia, che da solo riesce a differenziare e raccogliere l'88% dei rifiuti, e si chiama Ponte nelle Alpi. Insomma, gli restavano solo gli assorbenti da differenziare. Esatto, gli rimaneva questo. E allora che cosa hanno pensato? Adesso ce lo facciamo raccontare dall'ingegnere che ha messo a punto tutto questo sistema di riciclo, appunto, di questa ingente quantità di materiali. Allora, intanto diamo il benvenuto a Marcello Somma. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Buonasera. Lei è ingegnere di Fader S.P.A. che ha messo a punto questo sistema innovativo di riciclo, che consiste in che cosa, insomma? Quello che abbiamo fatto è sviluppare un sistema innovativo di riciclo, una tecnologia innovativa che alla fine sanitizza questi prodotti usati, perché la prima priorità chiaramente è eliminare tutte le cariche potenzialmente patogene che si annidano in questi, in questi prodotti a seguito delle deiezioni umane. Cioè, questi prodotti sono fatti per, appunto, assorbire tutti i fluidi umani, maschili, femminili, bambini, insomma, e di adulti ed anziani, quindi sterilizzarli completamente e poi asciugarli e separare questi prodotti nelle due componenti principali, quindi la cellulosa e la plastica. Mi sembra che un aspetto importante di questo processo è che non usate sostanze chimiche, giusto? Assolutamente nessuna sostanza chimica, tutto il processo si basa su una tecnologia abbastanza vecchia che abbiamo chiaramente aggiustato per i nostri bisogni, che è quella del vapore, quindi vengono quasi cotti a bagnomaria in una grande autoclave, quindi semplificando, e usando la temperatura, la pressione e l'azione purificatrice del vapore, senza alcun agente chimico i prodotti vengono sterilizzati, dopodiché vengono appunto separati in cellulosa e plastica. Con una specie di centrifuga? È una specie di centrifuga, sì. I prodotti che vengono fuori sono praticamente puliti, plastica pulita, cellulosa pulita, riutilizzabili, sì, al 100%. Sì. Di alta qualità, per cui tutto il pannolino al 100% viene riciclato, con la cellulosa si fanno, come diceva lei prima, cartoni, quindi vengono rimessi nuovamente nei processi industriali, cartoni ad uso industriale, con la plastica si possono fare arredi urbani, parchi giochi per bambini, panchine, tutto quello che si può fare con la plastica. E più o meno quanto recuperiamo da un prodotto originale? Tutto quello che originariamente era il pannolino, virtualmente al 100% viene recuperato, al netto chiaramente di alcune fisiologiche perdite di processo che ci stanno in tutti i processi industriali, e anche una parte delle deiezioni umane, la pipì viene essa stessa, questo è un aspetto, diciamo, innovativo, simpatico del progetto, utilizzato in una prima fase del processo per produrre quel vapore che poi serve a sterilizzare i prodotti stessi. Insomma, non buttate via niente. No. C'è uno stabilimento, c'è un impianto che sta nascendo per fare questa operazione, credo che stiamo passando dal progetto pilota adesso a un progetto su piena scala, no? Sì, il progetto è stato dal punto di vista tecnico sperimentato e validato fino a scala preindustriale su iniziativa e processo di Fater S.p.A. E adesso c'è un impianto pilota in costruzione presso il centro di ciclo di Vedelago in provincia di Treviso. Tengo a sottolineare che c'è sia un aspetto tecnologico innovativo in tutto questo che un aspetto di filiera italiana, cioè qui si sono messi insieme il produttore del bene pannolino, il comune di Ponte delle Alpi che è all'avanguardia tra i comuni italiani per la gestione dei rifiuti e un centro di riciclo che è uno dei centri di riciclo maggiormente avanzati in Italia nel riciclo delle plastiche in particolare e che ospiterà un impianto da 5.000 tonnellate anno a partire da settembre, la costruzione è in corso e che servirà a regime un'area di 400.000 abitanti. Sarà la prima realizzazione, diciamo, su scala grande in Italia. Ecco, scusi, mi pare di capire che la difficoltà di questo tipo di riciclo era appunto che avessimo tre tipologie diverse, Veneto plastica, cotone o cellulosa e l'organico. Ma prima che cosa si utilizzava? Cioè, venivano semplicemente bruciati? Sì, nell'80% dei casi finivano in discarica, nel restante 20% dei casi vanno inceneriti con tutte le conseguenze che ne derivano e comunque si tratta di prodotti umidi e quindi anche dal punto di vista della resa energetica poco interessanti. Come avviene la raccolta? La raccolta avviene in vari modi, a casa con i cosiddetti maialini, quindi sistemi di raccolta apposita per i pannolini, o con il sistema porta a porta, dipende poi dal comune come si organizza, dove vengono raccolti in buste di plastica antiodore. Mai nome fu più azzeccato, Chiara, questi maialini mi sembrano perfetti. Grazie Marcello Somma. Grazie a voi. Buona serata. Ci fermiamo qui anche perché ci siamo già pericolosamente avvicinati all'argomento di domani. Ciao Chiara. Buonasera a tutti, a domani.